Incontri di Gianfranco Fabi. Freddie Mercury e Montserrat Caballé, Barcelona, con queste note iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Gabriele Ghini. Buonasera. Ecco, prima di presentarvi Gabriele Ghini, gli chiediamo perché Barcelona, perché questa prorompente canzone di Montserrat Caballé e Freddie Mercury. Perché inevitabilmente il mio lavoro sta orientandosi sempre di più sulla ricerca di persone all'estero e dunque Barcellona mi sembrava un buon inizio. C'è anche un bellissimo film molto divertente, L'appartamento spagnolo, non so se l'avete visto, di questi stagisti che vanno a Barcellona e casseggiano per anni, e così allora mi era venuta questa idea. Ma c'è anche una certa, la Spagna è un ambiente un po' più attrattivo rispetto all'Italia per i manager, per un'economia un po' più vivace, con tanti problemi ovviamente. Tantissimi problemi, è un mercato che sta un po' alla volta riprendendosi, grande flessibilità, grande voglia di crescere e di speranza nel futuro. Ecco, credo che questa speranza nel futuro un po' si sia persa qui da noi, questa è un po' la cosa che mi dà fastidio. Ne parliamo. Gabriele Ghini è amministratore delegato di Transurge Italia, ha già spiegato che si occupa di ricerca di manager ad alto livello. Ecco, ci spieghi meglio che cos'è Transurge Italia. Noi facciamo caccia di teste e dunque la selezione di manager da una certa posizione in poi, diciamo da amministratore delegato a N-2, per cui i riporti dell'amministratore delegato, i riporti dei riporti dell'amministratore delegato. Queste sono la nostra fascia. La fascia di alto livello, non vi occupate di assunzioni di personale normale. Abbiamo anche all'interno del gruppo una società, una divisione che si occupa di middle management con uguale dignità, sono metodologie diverse. Ecco, Transurge è una società multinazionale, americana. È un network di imprenditori locali che aderiscono a un comune metodo di lavoro e sono organizzati come una multinazionale nei confronti del cliente, come invece società locali nei confronti della fiscalità locale. Diciamo così. Ecco, quindi è una rete appunto di imprese in questo senso operative a livello mondiale? Esatto. Di origine francese, siamo una delle poche non americane. Beh, è strano che una società di origine francese abbia un nome americano, i francesi sono molto legati alla loro lingua. Si è questa però l'ha voluto fatta passare. Questa l'ha fatta passare, sì, molto internazionali. Ecco, come è vista l'Italia in questa rete, come paese, come capacità di paese proprio, come sistema paese, come possibilità operative per gli alti dirigenti in questa realtà? Più che nella realtà, l'Italia è in questo momento un paese di conquista. Qui arrivano società internazionali e per fortuna ci sono capitali internazionali che ancora credono nell'Italia, che comprano purtroppo a prezzi di saldo società italiane, però che hanno una storia e un brand forte sul mercato internazionale, li finanziano, cambiano il management, perché evidentemente se le società sono arrivate al collasso, certo, qualche responsabilità il management precedente l'aveva, e lo sostituiscono con criteri finalmente meritocratici, per cui noi stiamo lavorando molto bene. Per darle un'idea, rispetto al 2013 siamo cresciuti e ormai possiamo arrivare ai consuntivi, perché certo, siamo a fine novembre, del 50%. Ecco, in questa prospettiva diciamo che è un mercato in crescita questo, ma per manager italiani o per manager internazionali che vengono in Italia? Manager italiani, anche perché in Italia abbiamo una sovrabbondanza di manager di grande spessore che in questo momento stanno trovando difficoltà importanti a ricollocarsi, si sono grandemente ridotti i numeri di lavoro, i posti di lavoro, col fatto che le multinazionali che una volta assumevano in Italia hanno portato tipicamente i loro headquarters in città come Londra, come Bruxelles, come Parigi, per cui le posizioni apicali nelle società multinazionali si sono ridotte e dunque i manager italiani, anche veramente molto bravi, sono sul mercato. Insomma, io ricevo mediamente 20 curricula al giorno di persone che o cercano lavoro o sono, cioè cercano lavoro avendo un lavoro o sono in difficoltà. C'è più domanda che offerta di lavoro. C'è una domanda incredibile. Ecco, in questa prospettiva lei parla appunto di meritocrazia, di merito. È una parola che all'interno delle imprese italiane fatica un po' a prendere piede e se valgono ancora le relazioni, i rapporti, le amicizie, le capacità di avere delle spinte esterne oppure il merito si afferma? Difficilissimo dare una risposta. Quando vengono da noi, vengono per cercare delle persone capaci, per cui la misura, l'unica misura che noi adottiamo è quella della meritocrazia. Di fatto noi copriamo, noi come tutte le società di executive search, non solo Transsearch, copriamo non più del 20-30% del mercato nazionale, il resto va per amicizie, fedeltà, network, eccetera. Cioè io assumo una persona perché mi fa un piacere, faccio un piacere a qualcuno, questo mi restituisce il piacere, quindi è ancora una società di relazioni. È ancora una società di relazioni. Ecco, parlavamo appunto di imprese estere che vengono a investire in Italia, però possiamo parlare anche di manager italiani che vanno all'estero, sono molti anche i manager italiani all'estero e che magari riescono ad avere più fortuna che non in Italia proprio perché riescono a mettere a frutto il merito, le capacità, la professionalità. Questo è un fenomeno incredibile che è scoppiato direi negli ultimi 5-7 anni, non di più. Guardi, fino a 10 anni fa quando si facevano ricerche internazionali inevitabilmente cascavi su americani, inglesi, francesi, tedeschi, olandesi, tanti olandesi. Poi ci siamo resi conto appunto da poco più di 5 anni che si è costituita una importante comunità di manager a livelli italiani che sono andati all'estero e che hanno costituito la famiglia Lau, si sono portati dietro la famiglia, sono ormai stabili e noi abbiamo costituito una community che in questo momento conta oltre 1800 manager, chiamata Manager Italiani Senza Frontiere, e abbiamo fatto un'indagine all'interno di questa community, solo il 5% di questi sarebbe interessato a tornare in Italia, casomai in pensione, ecco, non per lavoro, ma casomai ma se avesse un posto di lavoro più remunerato, così, però non c'è più questa voglio tornare nel bel paese, mi piace l'Italia, non vedo l'ora, eccetera. Stanno fuori, stanno bene fuori, vivono delle dinamiche molto più stimolanti all'estero e non hanno nessuna intenzione di rientrare in Italia. Questo è un segno positivo per le aziende italiane che volessero crescere all'estero, perché vuol dire avere un bacino molto importante e molto qualificato di competenze. È un segnale non particolarmente positivo per il nostro paese all'interno. Ecco, indubbiamente, perché all'estero può essere proprio nel suo campo, nel campo dei manager di alto livello, è più facile fare carriera, è più facile arrivare a posizioni di vertice anche ad età abbastanza basse, non dico da giovanissimi, però in Italia la classe dirigente è abbastanza, diciamo così, attempata. La classe dirigente è attempata anche perché i posti di lavoro sono sempre meno. E dunque chi ha una poltrona la tiene stretta. All'estero c'è un dinamismo veramente impressionante, soprattutto diverso. C'è una recente indagine che è sempre all'interno di questa community, dove qualcuno ha lanciato l'idea qual è il paese nel quale andare, dove sono le opportunità, e addirittura qualcuno ha citato l'Iraq, no? E Bassora sembra essere uno dei posti con maggiore potenzialità. Questo vuol dire tutto, vuol dire tante cose, insomma vedremo magari nella seconda parte di mettere a fuoco anche appunto queste potenzialità di un mondo che ormai è globale anche per chi vuole lavorare, quindi queste opportunità vanno sicuramente prese in esame. Incontri. Celebrations and Ancora con Freddie Mercury e Montserrat Caballé, con questa impetuosa Barcellona, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Gabriele Ghini, amministratore delegato di Transurch Italia, una società, ci spiegava, di cacciatori di teste, soprattutto nell'ambito alto della fascia lavorativa, dei dirigenti, dei manager delle imprese. Parlavamo di molti italiani che proprio per far carriera vanno all'estero e riescono a fare carriera, e l'estero non è più solo l'America o la Gran Bretagna o la Francia, che sono più vicini a noi anche come modelli economici, ma ci sono anche tentazioni di andare da altre parti. Parlava addirittura dell'Iraq, manager in imprese irachene? In imprese irachene, o manager in aziende italiane che vogliono crescere in Iraq, o manager che vogliono tentare la sorte e vanno dove ci sono delle opportunità o si costruiranno le opportunità di quei prossimi 5 anni, per cui nell'interno della community qualcuno diceva: chi ci va adesso troverà opportunità, se vai fra 5 anni tutti i giochi saranno fatti. Ecco, quali sono le società che si dimostrano più dinamiche? La Cina, indubbiamente, però forse c'è qualche problema andare in Cina a fare il manager. No, la Cina non è più un mercato così vivace come si pensava, è molto più vivace l'Indonesia, l'America sta riprendendo in una maniera incredibile, grandi problemi sul Brasile, grandi delusioni da quelli che sono stati in Brasile o che stanno in Brasile, il Centro America sta crescendo, Inghilterra anche. Ecco, a livello di settori invece, quali possono essere i settori dove c'è maggior dinamismo, maggiore crescita, anche magari se un giovane vuole orientarsi all'università a fare più chimica, più ingegneria, più qualche altro, più banchiere magari o bancario? Ormai il mondo finanziario non ha più l'appeal, non ha più anche i bonus che aveva fino a prima del 2008. Li hanno consumati tutti. Li hanno bruciati tutti, consumati tutti. Consiglierei degli studi difficili, per cui ingegneria, e consiglierei di fare quanto prima esperienze internazionali, veramente di vedere il mondo come casa propria. Sembra una banalità, ma è così. Ancora troppe poche persone sono disponibili a lasciare la famiglia, prendere, andare a studiare all'estero e poi continuare fuori. Ecco, però gli esempi dicono che chi fa questa scelta poi non vuole tornare indietro. Non vuole tornare indietro perché è positiva la scelta che ha fatto e continua a vedere alle sue spalle un paese che ha qualche difficoltà. Comunque, io lo continuo a vedere come una straordinaria potenziale ricchezza per le aziende italiane, che invece di prendere un manager cinese in Cina hanno adesso la possibilità di prendere un manager italiano in Cina ad uguali competenze, ma a maggiore fedeltà, a maggiore affinità da un punto di vista culturale, che non lascia l'azienda per 100 euro al mese di stipendio in più e soprattutto che si sente orgoglioso di rappresentare e lavorare per un'azienda italiana. E questo avviene, le aziende italiane sono attente a questo nuovo mercato di manager italiani all'estero? Cominciano in maniera veramente molto forte a essere interessate e attente a questo mercato. Recentissimamente ho inserito un top manager italiano come direttore dell'ufficio acquisti di una grossa azienda in Cina, cioè qui un'azienda italiana, ma la base dell'ufficio acquisti l'hanno costruita in Cina, perché lì, conoscendo il mercato, riesce ad avere accesso a fornitori molto qualificati e qualitativamente buoni. Qualitativamente è cresciuta molto la Cina e a prezzi ancora competitivi. Ecco, quindi c'è questa possibilità, che è ancora peraltro limitata, potrebbe esserci molto di più. Potremmo anche fare un appello alle imprese, se qualche imprenditore ci sente: se volete andare sui nuovi mercati, non andateci direttamente, ma cercate italiani che lavorano in questi mercati. Prima di tutto fate un business plan accurato, non andate in maniera casuale, sappiate che una volta che avete un business plan solido ci sono delle risorse umane molto qualificate in giro per il mondo. E comunque l'Italia è ancora un valore aggiunto per molte realtà, pensiamo alla creatività, alla capacità di affrontare in maniera diversa determinati problemi, alla mancanza di rigidità, alla capacità di adattarsi, sono tutte connotazioni che si ritrovano poi nei manager che vanno all'estero, che lavorano all'estero. Due cose: noi non abbiamo la consapevolezza di quanto sia ancora apprezzato il marchio Italia nel mondo. È straordinario. Poi quando ci si presenta come società italiana in qualunque settore, in giro per il mondo, questo ha un valore veramente forte. E l'altra cosa, è vero, siamo molto più flessibili, molto più creativi, questo in un mondo che ha poche certezze, che cambia in maniera velocissima e spesso inaspettata, questo ci dà un vantaggio competitivo molto forte. Ecco, lei diceva prima appunto che c'è questa realtà di italiani che sono all'estero appunto per giocare la loro esperienza, ma mantengono comunque dei rapporti molto stretti con l'Italia, magari cercano in qualche modo di avere una circolarità nella loro esperienza, oppure... No, non mantengono rapporti molto stretti con l'Italia, quello che cercano di costruire è una community di italiani locale, cui italiani a Parigi, italiani a Giacarta, italiani a Singapore, eccetera, per trovarsi, e anche perché, essendo all'estero, con le loro mogli, qui veramente non voglio fare un discorso sessista, ma a parte certi ambiti, specificatamente il fashion, la comunicazione, eccetera, il 95% dei manager sono uomini con famiglia, no? Ecco, le loro mogli in questo modo trovano un modo migliore per vivere, per avere e costruire amicizie, certo. Avere una ecco, lei come cacciatore di teste, qual è stata la testa più difficile da trovare che ha avuto durante negli ultimi anni, diciamo, non nella sua carriera, però la soluzione più difficile che si è trovato ad affrontare? Mi chiesero un manager per il Camerun, poi un direttore molto importante per un'azienda italiana con una sede in Camerun, e andai a prendere, più o meno casualmente, un manager italiano a Pechino e lo portai in Camerun. La cosa divertente fu che scoprii che questo manager da giovane aveva seguito il padre in Africa, il padre aveva vissuto molti anni in Africa e aveva veramente maturato questo mal d'Africa, voleva a tutti i costi tornare in Africa. Gli offrì il Camerun in maniera, insomma, quasi un po' scettica, ci proviamo. Prese moglie e due figli e andò in Camerun, fantastica. Ecco, quindi anche le soluzioni più complicate, bisogna avere l'idea di tante competenze e anche di tante realtà che vanno al di là delle competenze, perché un Mar d'Africa forse non si mette nel curriculum non della si persona. Mette ecco, ma in questo senso appunto chi si rivolge a voi da parte delle richieste, appunto da parte delle aziende, ma anche da parte di chi cerca un lavoro, cerca di essere il più sincero possibile oppure ogni tanto confonde le carte? Sappiamo per esperienze, per statistiche, che il 30% dei curricula contiene quelle che vengono definite gravi inesattezze. Okay? La cosa però che ancora spesso i candidati non sanno è che c'è internet, e allora io ormai non incontro più un candidato sulla base del curriculum, ma i miei ricercatori mi mettono sulla scrivania un dossier sui candidati. Un dossier vuol dire tutto quello che è apparso in internet negli ultimi anni sul candidato. Cominciare dal profilo Facebook, magari, perché magari dal profilo Facebook, ma a volte anche dal profilo giudiziario, no? Per cui il candidato si siede, è inquisito per una serie di cose e non sa che io so, e allora la conversazione spesso non è proprio così simpatica, però io non posso aspettarmi o rischiare che l'azienda scopra le cose e io non le sappia, no? E dunque il nostro lavoro che dà all'azienda un grande valore aggiunto anche in questo senso, di conoscere il candidato a 360 gradi. Ecco, a certi livelli, cioè internet può servire magari per conoscere delle opportunità, però pensare che possa diventare un'agenzia del lavoro forse è un po' troppo. Lo è stato finché i possibili candidati su internet erano pochi. Le voglio fare un esempio. LinkedIn, che è il network professionale più conosciuto, più diffuso al mondo, in questo momento ha oltre 330 milioni di persone. Si iscrivono 2 persone al secondo. È chiaro che con questi numeri devi per forza andare da qualcuno che fa la selezione in maniera professionale, perché certo, se uno lo fa da solo rischia di avere 3.000 curricula sulla scrivania per la stessa posizione. Ecco, quindi indubbiamente il contatto personale, la conoscenza personale è ancora fondamentale, soprattutto a certi livelli. Sì, sì, l'aver seguito la storia delle persone, i successi reali della persona nelle aziende. Io e lei abbiamo qualche anno e dunque nel 2000, beh, non molti, ma nel 2005-2006 ci sentivamo tutti dei fenomeni, le aziende andavano da sole, dove mettevi mano creavi soldi, no? Ci sentivamo tutti dei remida, ecco. Poi col 2008 abbiamo scoperto i nostri limiti e dunque anche nel mio caso la valutazione delle reali capacità e competenze del manager a prescindere da fattori contingenti che portano l'azienda a crescere all'impazzata. Le è mai capitato qualche richiesta anomala, che so, di un partito politico che cercasse un dirigente? No, io lavoro ogni tanto con delle società pubbliche e vengo chiamato con una premessa: sappiamo che lei non è coinvolto con nessun partito politico e che non è influenzabile, per cui lavoro poco proprio perché c'è questa premessa di base. Quindi ecco la consapevolezza però che forse bisognerebbe essere, premiare appunto la capacità, il merito, bisognerebbe essere al di sopra delle contingenze politiche o di amicizia, forse c'è, anche se poi la pratica può essere diversa. Esatto. Grazie mille, grazie a Gabriele Didi per questo excursus nella realtà delle società internazionali, della realtà del management, della realtà anche del lavoro, con tante ombre in Italia, ma con tante speranze, perché se in fondo i nostri giovani fanno successo all'estero, vuol dire che le capacità in fondo ci sono e possiamo anche magari dall'estero rendere più forte questo nostro paese. D'accordo con lei. Grazie a Gabriele Ghini per essere stato con noi questa sera, grazie anche a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie per quanto resta, buona domenica.